Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Forse qualcuno se ne sarà accorto, gli affezionati del palinsesto di Radio 24. A Radio 24 abbiamo indetto la settimana del fotovoltaico. E perché abbiamo deciso di occuparcene in maniera trasversale su più trasmissioni, e adesso vi spiegherò anche quali sono? Perché c'è un dato di cronaca che ha attirato la nostra attenzione e che abbiamo voluto approfondire. Le installazioni di impianti fotovoltaici nel nostro paese stanno avvenendo a ritmo incessante, tanto che secondo dati del gestore del sistema elettrico a fine 2010 sono stati raggiunti i 7.000 megawatt di potenza installata. Ma a fronte di questa importantissima rivoluzione del paese, che sta portando molte famiglie a convertirsi all'energia pulita anche attraverso un investimento che ci impiega qualche anno ad essere ammortizzato, c'è un rovescio della medaglia, perché paradossalmente più impianti si costruiscono, di sicuro con grande beneficio per l'ambiente, più incentivi devono essere erogati e più crescerà in prospettiva la nostra bolletta energetica. Si calcolano 3 miliardi di euro per i prossimi 20 anni. Noi non vorremmo che questa prospettiva scoraggiasse certe scelte da parte delle famiglie e delle imprese, è però una situazione interessante da analizzare, che è stata anche denunciata a più riprese dal presidente uscente dell'Autorità del Gas e dell'Energia, Alessandro Ortis, che parla spesso di livello ormai intollerabile dei sovrapprezzi verdi in bolletta. Allora, noi oggi abbiamo preso tutto questo presupposto per fare un punto della situazione, ma anche per rispondere alle domande più concrete da parte vostra, per capire come si installa un impianto, come si fa a valutarne la convenienza, come si quantifica il beneficio dell'investimento e il risparmio nella bolletta per gli usi domestici. E allora naturalmente potrete intervenire all'800240024 con le vostre domande in diretta, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. con chi vi faccio chiacchierare questa mattina. Intanto, siccome io di megawatt non capisco un bel niente, mi sono dovuta far venire a confortare da Maurizio Melis, collega conduttore della fortunata trasmissione di Radio 24, Mr. Kilowatt. Maurizio, ciao. Ciao Deborah. E benvenuto a Salva Danaio, quindi ti abbiamo fatto fare un orario un po' diverso dal solito oggi per la nostra diretta, ma saluto anche Gianni Chianetta, presidente di Asso Solare, l'industria di categoria praticamente, anche voi giovanissimi, tanto anche a dimostrazione del fatto che questo è un settore che sta avendo un impulso notevole soprattutto in anni recenti. Dal 2006 siete nati, se non sbaglio. Siamo nati dal 2006, proprio da quando è nato con noi il conto energia che ha rivoluzionato il settore. Asso Solare è l'Associazione Nazionale Industria Fotovoltaica di Confindustria Energia, e siamo ben lieti di discutere di questo caldo argomento. Tra l'altro, so che avete avuto anche dei bei confronti proprio con il gestore dei servizi, e allora l'ingegner Gerardo Montanino è tornato a trovarci a Salva Danaio dopo aver fatto già una bella trasmissione con noi intorno a metà dicembre. Parlavamo proprio degli incentivi al fotovoltaico e della riduzione degli incentivi previsti per il 2011, anche se lì c'è un po' di meccanismo da chiarire. Ingegner Montanino, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. E allora, io ho ricordato i numeri per intervenire, adesso entreremo nel vivo appunto della nostra discussione. Prima però un'occhiata alla borsa, come facciamo tutte le mattine, e vi ho già ricordato nel giornale radio quella che è la tendenza di questa giornata. Un mercato che appare freddo rispetto alle notizie di fusioni e aggregazioni che sono arrivate ieri. Stanno nascendo i colossi mondiali dei mercati finanziari. Ieri appunto si è appreso che la borsa di Toronto, quindi quella canadese, si aggregherà per una fusione molto importante con la borsa di Londra e con quella italiana. Dopodiché ieri sera sono stati anche più o meno confermati dei colloqui in stato avanzato fra il NYSE, Euronext e Deutsche Börse, e quindi è un movimento piuttosto importante che però, come vi dicevo, non scalda il mercato, perché oggi gli indici sono tutti in ribasso: Parigi meno 0,9%, Francoforte meno 0,4%, Londra meno 0,82%, Milano meno 1,30%. Però insomma il mercato da qualche settimana viaggia sui massimi da un paio d'anni a questa parte, per cui oggi prese di profitto che stanno fioccando un po' ovunque. Trascinare ribasso Milano, ancora una volta i titoli del settore bancario. Il Banco Popolare stamattina è il peggior titolo, perde 3,5 punti, Mediolanum meno 2,40, Intesa meno 2,33, Mediobanca meno 2,29, Popolare di Milano meno 2,18%. Segno più invece su Snam Rete Gas, che ha divulgato i dati di bilancio questa mattina: oltre 1 miliardo di utili nel 2010, dividendo in distribuzione agli azionisti di 23 centesimi, titolo in rialzo di 1 punto percentuale, più 0,8% per Fondiaria. Euro su dollaro 1,36 e 34. Lasciamo la borsa, il petrolio, visto che tra l'altro parliamo di energia questa mattina, $102 al barile, per adesso se ne preoccupa solo l'inflazione, e però chissà che anche le nostre tasche non se ne dovranno preoccupare al più presto. Di sicuro l'impatto sulla benzina è sempre immediato. Maurizio, aiutami ad introdurre il tema di questa mattina. Allora, 7.000 megawatt solari installati a fine 2010 nel nostro paese. Che cosa ci indica questa cifra? Beh, intanto 7.000 megawatt è 1.000 megawatt meno dell'obiettivo che ci eravamo dati con il nostro piano di azione nazionale che avremmo dovuto raggiungere per quanto riguarda il fotovoltaico nel 2020. Che cosa indica? Indica intanto una significativa... Sembra una buona notizia, teoricamente. Certo, da un lato è un'ottima notizia con 10 anni di anticipo, però bisogna sempre ricordare, quando si parla di queste tecnologie, che sono tecnologie in evoluzione e che quindi stanno stanno subendo un calo dei costi significativo ogni anno, che se da un lato, come dire, bisogna a un certo punto partire e cominciare a dotarsi di energie rinnovabili, dall'altro è fondamentale farlo nel modo ottimale, perché certi investimenti spostati prima nel tempo fanno come dire, lievitare moltissimi i costi. Cosa voglio dire? Che se questi 8 gigawatt li avessimo raggiunti, non dico nel 2020, perché forse 8 gigawatt sono pochi a questo punto per l'Italia come obiettivo, ma magari nel 2015 ci sarebbero costati comunque molto perché meno. Perché si sarebbero installate tecnologie meno costose, più efficienti, alternative, per esempio. Certo. Questo è l'aspetto che peraltro proprio nella sua relazione aveva segnalato, come avevo detto prima, il presidente dell'Autorità dell'Energia e del Gas, Alessandro Ortis. Allora, il tema è questi incentivi che ci sono e sono molto importanti, hanno fatto sviluppare enormemente sia l'industria ma anche appunto certi cambiamenti di abitudini di consumo all'interno dell'ambito familiare, e sono però appunto come dire, cambiamenti di abitudini che si stanno trasferendo anche sugli oneri in bolletta. Adesso spiegheremo con che modalità, però volevo andare all'ingegner Gerardo Montanino, appunto del gestore dei servizi elettrici del nostro paese. So che c'è questa discussione tra voi e Assosolare appunto sui 7.000 megawatt di potenza installata. Detto questo, poi sentiremo per quale motivo loro dicono che in realtà la cifra è molto inferiore. Però com'è la distribuzione sul territorio, ingegner Montanino? So che questa domanda, se non mi ricordo male, gliel'ho già fatta anche l'altra volta a Salva Danaio del 20 dicembre, ma soprattutto com'è la distribuzione tra famiglie e imprese? Ma se parliamo del numero di impianti, la maggior parte credo sia in Lombardia degli impianti oggi in esercizio. Abbiamo raggiunto i 150.000 impianti per circa 3.000 megawatt complessivi a fine dicembre. Per quanto riguarda invece la potenza installata, la parte più alta è installata in Puglia, perché come ciascuno può immaginare è la regione favorita dal sole. Sono un po' avvantaggiati quindi, dal punto di vista meteorologico, mettiamola così. Certo, perché lo stesso kilowatt installato nel nord potrà produrre in un anno 1000 kilowattora, installato nel sud ne può produrre 1500-1600, quindi con lo stesso investimento uno ha una produzione, quindi un reddito che è del 50% più elevato, per cui è il sud quello più con maggiori potenze installate. Anche le domande che ci sono pervenute, questi 4.000 megawatt o giù di lì, per adesso siamo a 3.800, ma dobbiamo ancora aprire alcune, stiamo completando il lavoro di apertura delle mail che sono pervenute, mostra che ben 800 megawatt di questa potenza è installata in Puglia, e che anche la dimensione di questi impianti sta crescendo, perché mentre per gli impianti già in esercizio la potenza media è di circa 20 kW ciascuno, gli impianti vanno da 1 kW a 80.000 kW, la potenza media di questi nuovi impianti è diventata di 70 kW e per giunta in Puglia è di circa 200 kW. Il fenomeno mostra che si stanno installando molti impianti di potenza elevata, quindi mentre quando è partito il conto energia erano più numerosi i piccoli impianti da 3 kW messi sui tetti delle case, che poi rappresenta il modo più intelligente naturalmente di produrre, perché producono in prossimità dei carichi e valorizzano nel modo migliore l'energia. Adesso c'è più movimento nell'ambito industriale, dice lei. La conclusione adesso è questa, sta crescendo in ambito industriale o soprattutto impianti sul terreno, cioè impianti ne abbiamo visto uno da 8 megawatt che copre più di 30 ettari, cioè distese enormi di territori in alcuni casi tolti all'agricoltura e dedicati a produrre reddito attraverso i pannelli fotovoltaici. Quindi sta crescendo la taglia degli impianti. Benissimo. Allora, abbiamo chiamato questa settimana "I conti non tornano" nell'ambito del fotovoltaico, perché secondo l'industria, appunto secondo Asso Solare, che io ritengo non possa che essere soddisfatta di queste cifre, perché insomma significa anche un bel po' di lavoro in movimento, adesso non vorrei essere banale anche nella considerazione, però è pure paradossalmente, come dire, un momento al quale l'industria fa fatica a stare dietro, e credo che abbia contestato il dato diffuso dal gestore dei servizi: 7000 megawatt non vi tornano, dottor Chianetta. Allora, devo sottolineare un aspetto molto importante, perché ritengo adesso, e l'abbiamo sempre ritenuto, che il GSE ha fatto e sta facendo un egregio lavoro e ce lo invidiano in tutta Europa. Ma io non volevo infatti scatenare una polemica, né un conflitto con lei e Montanino, era solamente capire, sì, siccome comunque questa nota è stata abbastanza, esatto, divulgata anche dai giornali, il fatto, esatto, che voi contestiate i 7000 megawatt, sì, perché ritenete che la potenza installata sia molto inferiore, almeno a fine 2010, per quale motivo lo dite? Semplicemente perché sicuramente le carte, le domande pervenute al GSE saranno di quelle dimensioni, insomma, perché ovviamente il GSE ha fatto un censimento puntuale, però da nostre stime, in base a moduli entrati in Italia da paesi extraeuropei, europei, praticamente abbiamo dei valori ben più bassi. Parliamo praticamente di un totale tra connesso 2010 e praticamente diciamo asseverato e quindi rientrante nel decreto Alcoa di 4,5 gigawatt. Quindi secondo noi potrebbero... mancano l'appello quasi 3. Esatto, e diciamo c'era anche un articolo recente anche dove diciamo è intervenuto il ministro Romani, il Corriere della Sera, in cui si parlava addirittura di un impianto sulla carta di 8 megawatt che nella realtà andandolo a vedere sono stati installati soltanto 40 kilowatt. Quindi fenomeni di questo genere dal nostro punto di vista potrebbero essercene tanti, e quindi questa notizia, che ovviamente è ancora oggi sulla carta, ha creato tanto allarmismo ha turbato un po' il mercato dal punto di vista ovviamente della percezione del rischio, certo, per quanto riguarda ovviamente gli istituti di credito e quant'altro, e quindi questo ha danneggiato un po' il settore. Allora, detto questo, speriamo che questa polemica si possa stemperare abbastanza rapidamente. Quello che ci interessa capire, lo faremo a questo punto nella seconda parte della trasmissione, è perché si continua a dire che tutto questo boom del fotovoltaico tutto sommato porterà entro qualche anno, entro poco tempo, comunque a un ricarico in bolletta che quindi graverà sulle famiglie, sugli utenti domestici. Quindi andremo anche nel concreto delle abitudini delle nostre famiglie e soprattutto vi spiegheremo come funziona il nuovo conto energia, il numero 3, quello del 2011. A tra poco. E mentre si sta creando una discussione molto animata in studio fra i nostri ospiti che sono qua, Maurizio Melis, collega di Radio 24, conduttore di Mister Kilowatt, e Gianni Chianetta, presidente di Asso Solare, noi stavamo così anche monitorando un po' le domande che ci stanno arrivando da parte degli ascoltatori e quelle che ci stanno arrivando sia al numero verde che al 349-238-6666. Vedo posizioni nettamente contrapposte fra chi è un accanito sostenitore molto deciso anche di queste energie rinnovabili, molti ascoltatori che ci raccontano la propria esperienza di installazione di impianti fotovoltaici nella propria casa e nella propria azienda, chi invece non ci crede affatto e guarda già con qualche preoccupazione a quella che abbiamo definito la preoccupazione imminente di tutti, che è quella del ricarico in bolletta, perché gli investimenti che ci sono nel nostro paese appunto per installare gli impianti stanno andando avanti a marcia veramente spedita, però sono anche incentivi che devono essere erogati e che si distribuiscono tra tutti gli utenti. L'ho molto banalizzato la questione, Maurizio Melis, però di fatto la questione è questa. E allora ti faccio una domanda che avevo intravisto tra quelle degli ascoltatori, adesso ovviamente già non la trovo più, ma ecco, Marco da Brescia ci chiede: è vero che nelle bollette tutti pagano un'imposta per la diffusione delle risorse rinnovabili? Sì, questa imposta si chiama componente A3, fa parte degli oneri generali. Noi quando paghiamo la bolletta paghiamo l'energia più un tot. Questo tot serve, come dire, a sostenere i costi, per esempio, per la rete di trasmissione dell'energia. E per pagare tutta una serie di robe, lo smantellamento delle centrali nucleari. Devo dire che non è molto chiara in bolletta, perché stamattina io, te e Laura Bettini ci abbiamo messo un po' a cercarla, a trovarla, e non l'abbiamo trovata. Non c'è. Finisce proprio dentro un pezzo del costo dell'energia. all'incirca parliamo di un centesimo per ogni kilowattora. Kilowattora, diciamo, è l'unità di misura del consumo di energia in casa. Se voi guardate la bolletta trovate i consumi espressi in kilowattora. Per ogni kilowattora, più o meno, la componente A3 è un centesimo. Questa componente a sua volta è fatta di tante voci. Le rinnovabili sono circa i 2/3, cioè quella componente lì viene acquisita dal GSE e poi con la somma di tutti questi piccoli centesimi, come dire, il GSE restituisce a coloro che hanno realizzato degli impianti in base alla tariffa centivante in vigore, d'accordo? Allora, aver installato questi 7000 megawatt aver installato questi 7000 megawatt vuol dire essere passati da 4,5 come dice allora, Asso Solare. Se non sbaglio, ecco. Appunto, proprio Asso Solare qui sostiene che sono circa un quinto, credo, di questo centesimo, circa il 20% di questo centesimo è attribuibile, o meglio, era attribuibile al fotovoltaico. Ma l'anno scorso il fotovoltaico era 1 gigawatt, poco di più. Se adesso siamo passati a 7, questa roba dovrebbe settuplicare, tra virgolette, se è vero. Se invece questi moduli sono, non sono stati installati, se c'è tanta gente che sta cercando di truffare, ovviamente non sarà così. Ma a questo punto vorrei fare una domanda. Te la lascio fare, aiutami a fare questa connessione stamattina. Chi ha cercato di imbrogliare? Che cosa facciamo? Gli concediamo l'incentivo del 2011 o gli diciamo mo te lo sei giocato? Esatto, e perché lo devono pagare soprattutto perché altrimenti famiglie, i furbi. Assolutamente. Poi vado anche a Montanino, non mi sono dimenticata di lei, dell'ingegnere Montanino, che è il direttore della divisione operativa del gestore dei servizi energetici. Sì. Dal punto di vista di Asso Solare, chi ha truffato va assolutamente penalizzato, praticamente è un truffatore, quindi non gli fa riconosciuta nessuna tariffa e non solo, dovrebbe pagare secondo la legge italiana per truffa. E quindi siamo noi come Asso Solare pronti ad espellere soci che fossero coinvolti in situazioni di questo genere, così come non faremo entrare richiedenti che fossero stati coinvolti in situazioni di questo genere, e siamo pronti a collaborare con il GSE con dati interni alle nostre aziende eccetera eccetera per individuare subito eventuali truffe di questo tipo. Ingegner Montanino, ho fatto un mix fra i due cognomi, ingegner Montanino. Voleva tuffarsi nella discussione che abbiamo scatenato fino a questo momento, poi andremo anche alle domande degli ascoltatori, volentieri. Perché ne vedo già molti in lizza. Volentieri. Per quanto riguarda le verifiche, noi siamo partiti da dicembre scorso e stiamo facendo molte, forse molte altre le stanno facendo anche i gestori di rete e le amministrazioni competenti per le autorizzazioni, perché la legge 129 prevedeva che le comunicazioni di fine lavori con le asseverazioni arrivassero non solo al GSE, anche ai gestori di rete e alle amministrazioni competenti. E tutti e tre abbiamo questo compito di vigilare sugli impianti fatti. Io naturalmente posso rispondere per le verifiche che sta facendo il GSE, sulla base di questo mese di attività, la percentuale di impianti che non rispetta alla lettera quanto dichiarato è dell'ordine del 15%, ma solo in pochissimi casi si è verificato quello che è stato detto dal Ministro Romani, cioè in generale gli impianti hanno buona parte dei moduli installati, magari una piccola parte ancora messi sul terreno in attesa di essere installati, oppure sono tutti installati e mancano le connessioni elettriche, cioè nella stragrande maggioranza di questo 15% di casi non in regola, i moduli ci stanno. Quindi non so io risolvere il busillis tra i megawatt che troviamo sul campo e quello che risulta all'Agenzia delle Dogane. E questo non sta a me naturalmente verificarlo, lo faranno altri. Sì, Chianetta. Però diciamo secondo il punto di vista solare, magari chi ha truffato potrebbe essere non il grande operatore che ha fatto il grande impianto, ma chi ha fatto anche il piccolo e medio impianto e di questi numeri potremmo averne perché, tantissimi. Giustamente ingegner Montanino, Chianetta osserva, insomma, controllare il grosso impianto è più facile, no? È più visibile e andare ad individuare i piccoli pesci, che è un po' come succede per gli evasori fiscali, per tante altre cose, no? Sì, ma il gestore dei servizi energetici ha 300 persone che stanno a Roma, i gestori di rete ne hanno decine di migliaia che stanno su tutto il territorio nazionale, può darsi che loro, che sono più vicini agli impianti e che sono anche coinvolti per la connessione alla rete, siano in grado di scoprire tutti i furfanti che con i piccoli impianti cercano di approfittare dell'occasione. Ecco, quindi io però vorrei anche riportare la trasmissione su un binario di correttezza, così dando per scontato che ci rivolgiamo non a possibili truffatori e quelli che vogliono, come dire, approfittare anche del sistema degli incentivi, che è molto importante, che è in piedi per il sistema fotovoltaico e per, appunto, per l'installazione di impianti fotovoltaici nel nostro paese. Andiamo invece a chi ha installato magari già questi impianti a casa propria o nella propria azienda, e come Pietro da Modena ha perso la corsa degli incentivi, Pietro, e quindi vorrebbe capire se si può rimettere in gioco. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Sì. Lo volevo chiedere, io 4 anni fa ho montato qua a Modena 5 kilowatt sul mio tetto, sulla mia abitazione, e non ho preso né incentivi, niente, tutta spese mie. Ho speso una cifra non indifferente, di 38.000 euro. Volevo solo sapere se adesso, vedo che si danno tanti incentivi, se potevo chiedere degli incentivi. Pietro, infatti ha perso un'occasione importante, una carrozza importante. Ingegner Montanino, posso venire da lei? Intanto, ecco, magari Pietro lo ha fatto 4 anni fa questo lavoro, per chi lo avesse fatto l'anno scorso e volesse approfittare degli incentivi, che peraltro non abbiamo ricordato neanche a quanto ammontano, che tipo di trafila deve eseguire? In base al vecchio decreto, chi non presentava la domanda entro i 60 giorni previsti, se non aveva mai chiesto incentivi, poteva farla anche successivamente. Oggi l'attuale conto energia, è il terzo conto energia, prevede che la domanda si possa fare entro 90 giorni dal primo kilowattora immesso in rete. Se uno se ne ricorda dopo un anno, può fare domanda dopo un anno, ma perde un anno dei 20 anni di incentivo. Adesso, nel caso specifico, poi lo vedremo, se mi scrive vedremo che soluzione si può trovare. Si per può trovare, impianto. Potrebbe anche essere che non perde 4 anni per chiedere l'incentivo. E infatti, Pietro, che peccato, però ci scriva che magari ancora non tutto è perduto. A quanto ammontano questi incentivi? Chi mi vuole aiutare senza stare a pressare sempre l'ingegner Montanino? Maurizio. A quanto ammonta adesso la somma che paghiamo per... Ah no, gli incentivi, certo, il terzo conto energia. Il terzo conto energia, allora, secondo Nomisma Energia, è ancora uno dei più ricchi al mondo. Probabilmente il terzo dopo un paio di staterelli degli Stati Uniti particolarmente generosi. Sicuramente il più ricco d'Europa. Di fatto i valori non sono scesi molto rispetto a quelli del 2010, soprattutto non sono scesi molto quelli delle piccole installazioni. Cioè, se si fanno piccole installazioni, per esempio, diciamo che la tariffa più alta è quella riconosciuta per i piccoli impianti, quindi da 1 a 3 kilowatt, e il conto energia è di 40 centesimi a kilowattora. Considerate che un kilowatt ne produce 1000 di kilowattora in un anno, quindi fate 40 centesimi per 1000 e trovate quanto. Tu sei tutto così automatico, vi fa guadagnare le tue moltiplicazioni. Sai, tu ci sopravvaluti. Comunque, grazie per la chiarezza. 400 euro per ogni kilowatt, più o meno, no? All'incirca all'anno in Italia, considerando l'isolazione. Questa tariffa poi può avere degli aumenti o delle diminuzioni a seconda di casi particolari. Se è integrato, cioè se non si vede l'impianto, la tariffa è ulteriore. Se uno sostituisce, rimuove un tetto in Ethernet e ci mette un impianto fotovoltaico, c'è un ulteriore incremento del 10%. Mentre si diminuisce questa tariffa, il crescere delle dimensioni dell'impianto, e se l'impianto invece di essere su un edificio e quindi occupare un territorio già occupato da qualcosa, occupa un territorio piatto, diciamo un campo agricolo piuttosto che anche un'area industriale. Il livello più basso è di 25 centesimi per ogni kilowattora. Perfetto, allora intanto continuiamo anche a leggere i messaggi. Adesso devo dare suggerimenti per chi è in viaggio, ma c'è un altro ascoltatore che per esempio scrive: avendo realizzato l'impianto fotovoltaico sul tetto della sua casa di 6 kilowatt, praticamente sono 6 mesi che è in funzione dal 6 agosto 2010, ma gli incentivi non gli sono ancora arrivati materialmente, quindi anche lì capire un po' la tempistica, come funziona da quando la pratica è stata attivata e chiusa, asseverata, mi pare di capire che il termine ultimo sia quello, l'asseverazione di un ultimo funzionario, un ultimo tecnico, da lì poi quando arrivano appunto materialmente sul conto delle famiglie. A tra pochissimo. Allora, si stanno aprendo 2000 parentesi nella discussione di questa mattina, non riusciremo mai ad affrontarli tutti, ma continuiamo appunto a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori con la collaborazione stamattina di Maurizio Melis, collega di Mr. Kilowatt, Gianni Chianetta, presidente di Assosolare, l'ingegner Gerardo Montanino, direttore della divisione operativa del gestore dei servizi energetici. Peraltro, visto che all'inizio della trasmissione vi ho ricordato che questa per Radio 24 è la settimana del fotovoltaico, perché? Perché di questo argomento ci siamo occupati e ci stiamo occupando trasversalmente in tutta una serie di trasmissioni. Maurizio, tu l'hai già fatto a Mr. Kilowatt ieri sera. Montanino, tra l'altro, che insomma, ormai è gettonatissimo, uno dei nostri ospiti preferiti. I prossimi programmi dedicati a questo argomento, lo ricordo, saranno Storiacce e Voci di Impresa, rispettivamente in onda sabato e domenica, con Storiacce, con Raffaella Calandra. Andremo a vedere quante e quali sono le inchieste aperte per truffe in questo settore, quindi come vede dottor Chianetta ci stiamo occupando anche noi, come è già accaduto peraltro con l'Eolico, se non ricordo male. Voci di Impresa racconterà invece la storia della maggiore impresa italiana che produce pannelli fotovoltaici, e poi anche la collega Laura Bettini, appunto, di Radio 24, con la sua trasmissione L'altro pianeta, domenica alle 15, andrà su questo argomento. Allora, un'altra domanda di un altro ascoltatore, che è Paolo da Bergamo. Paolo? Sì, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Ce l'abbiamo fatta. Allora, volevo fare questa domanda. Innanzitutto, volevo fare complimenti, sempre queste trasmissioni interessanti. Grazie. E poi salutare ovviamente i suoi ospiti. Vada la domanda, Paolo, perché stiamo chiudendo. Grazie. Ok, allora, ho fatto recentemente l'impianto, è stato collegato a settembre del 2010. Parlando ieri con un collega, mi dice: l'ho fatto nel novembre del 2008, il GSE mi riconosce, mi arrivano i bonifici dell'incentivo, però per quanto riguarda invece la corrente che ho prodotto, continuo a pagare le mie bollette regolari e non mi viene rimborsata praticamente la corrente che produco. Allora, qua vedo anche un bel punto interrogativo sulle facce di Chianetta e Maurizio Melis, per cui Maurizio vorrei... Non so se è lo scambio sul posto che normalmente, no? Dottor Chianetta, sì, tra l'altro non diciamo, so se... Ci sono dei tempi a volte molto lunghi, diciamo, di anomalie di questo genere. In realtà sono arrivate segnalazioni anche in Assosolare, insomma. Ecco, in effetti, quindi diciamo lo prendiamo un po' come un fenomeno fisiologico. Sono ancora un tot di mesi... Fisiologico non dovrebbe essere. Non dovrebbe esserlo. Tra l'altro questa è una delle ragioni per cui il fotovoltaico in Italia poi oggettivamente bisogna incentivarlo di più. Perché comunque dal punto di vista della burocrazia purtroppo è molto complicato, i costi sono elevati. Quindi una delle ragioni per cui gli incentivo è così alto che bisogna pareggiare un po' questi scompensi. Assolutamente sì, abbiamo delle difficoltà burocratiche, processi autorizzativi che vanno dai 6 mesi fino ad arrivare anche all'anno e mezzo per i grandi impianti, e quindi serve praticamente stimolare diciamo questi ostacoli, insomma. Vorrei sentire allora Montanino su questo. Il caso che ci ha rappresentato l'ascoltatore di Bergamo, ingegner Montanino, è un caso, come dire, previsto nelle possibili regole del funzionamento del conto energia? Immagino che si tratti dello scambio sul posto. Per cos'è lo scambio sul posto? Ce lo spiega in 40 secondi. La possibilità per impianti di una potenza massima fino a 200 kW di immettere in rete l'energia quando non viene consumata localmente e poi di riprenderla in altri momenti. Si fa uno scambio commerciale tra l'energia immessa in rete e quella prelevata. I conti li facciamo noi. Purtroppo abbiamo bisogno sia delle letture di misuratori fatte dai gestori di rete in tutti i mesi, e sia anche di quanto il soggetto ha pagato all'impresa di vendita da cui acquista l'energia elettrica, perché gli rimborsiamo gli extra costi che ha pagato. Se manca per qualche mese l'informazione o dal gestore di rete o dall'impresa di vendita, il gestore, che è l'ultimo anello della catena, non riesce a chiudere i conti, e credo che sia questa la ragione che giustifica purtroppo i ritardi. Ingegner Montanino, la questione che avevo sollevato prima, appunto sulla tempistica proprio dell'erogazione del primo incentivo, una volta che l'impianto è stato installato, asseverato e quant'altro, dopo quanti mesi il diretto interessato, il sottoscrittore del contratto, chiamiamolo come vogliamo, vede il primo beneficio concreto, economico? Il soggetto responsabile ha... Lo chiamiamo soggetto responsabile. Il soggetto, che è il proprietario dell'impianto, ha 3 mesi di tempo per mandarci la documentazione. Se lui è sollecito e ce la manda invece che in 3 mesi, in un giorno, noi abbiamo poi 120 giorni di tempo che decorrono dal momento in cui riceviamo questa comunicazione, entro i quali facciamo il primo pagamento. Quindi dipende dal tempo che spende il soggetto più i nostri 120 giorni. Naturalmente si paga dal primo kilowattora prodotto, ovviamente. Maurizio, volevi intervenire? Sì, no, è abbastanza Melis. Importante questa cosa dello scambio sul posto, anche come indicazione proprio da dare agli ascoltatori. Perché che cosa vuol dire questo scambio sul posto? Che io fondamentalmente produco energia, ma non è detto che ne abbia bisogno nello stesso momento. Certo. No? Quindi io la butto in rete. La butto in rete e, come dire, il costo dell'energia sulla rete è di 8-10 centesimi a kilowattora. Ma il costo che noi come utenti paghiamo è molto più alto, è 16-18 centesimi kilowattora, cioè conto, è come dire no, la pizzaiolo costa meno, insomma. Allora lo scambio sul posto ci consente di guadagnare ulteriormente rispetto alla tariffa incentivante, perché se io faccio l'impianto, e questa è l'indicazione, delle dimensioni giuste, cioè più o meno questo impianto produce l'energia che io consumo nel corso dell'anno, con questo meccanismo di scambio sul posto io non solo prendo la tariffa incentivante, questi 40 centesimi per kilowattora di cui parlavamo, ma l'energia che consumo io, invece di pagarla 16 centesimi, è come se la pagassi 8, insomma, è come se la pagassi a prezzo di vendita anziché di acquisto. Sì, no, assolutamente sì, diciamo alla fine abbiamo un incentivo complessivo che è molto interessante. E infatti, diciamo, gli impianti su tetto per autoconsumo, comunque nel caso dello scambio sul posto, sono assolutamente molto molto interessanti, quindi bisogna approfittarne adesso. Questa, diciamo, è un'indicazione proprio per decidere di che dimensioni fare l'impianto. L'ideale per massimizzare il ritorno economico è quello di fare un impianto che più o meno produce la stessa energia che consumiamo. Esattamente, quindi non prendere in considerazione l'ipotesi dello scambio sul posto? No, questo è proprio grazie allo scambio sul posto. È il meccanismo che consente questa roba qua. Mi avete fatto girare la testa stamattina, dovevo fare almeno No, 500 trasmissioni per capire qualcosa. Tremo al pensiero che un giorno dovrò installare, chissà, magari su casa mia, un pannello. Giorgio da Modena, vediamo se riuscirà a fare l'ultima domanda, rapidissimo, deve essere telegrafico. Sì, in parte mi avete già risposto. La corrente che mente rete, appunto, lo scambio sul posto Giorgio lo fa, sì. Volevo chiedere la corrente, appunto, volevo chiedere la corrente che io produco in eccesso, che immetto in rete, se mi veniva pagato oppure veniva, diciamo, ne usufruivo nei momenti in cui non c'era sole, ecco. Perfetto, vado all'ingegner Montanino per l'ultima risposta. Sì, le regole attuali prevedono che questa energia immessa in rete, perché in quel momento non consumata, viene pagata dal GSE e in più rimborsiamo i delta costi, la componente A3, i corrispettivi aggiuntivi che il signore ha pagato sull'energia che ha comprato dalla rete quando l'impianto di notte non era in grado di produrre. Benissimo, gli ultimi 10 secondi li concedo a Chianetta di Asso Solare. E allora, che cosa facciamo adesso per controllare un po' di più? Vedo che è proprio il vostro, come dire, problema più grosso adesso, no? Quello che vi preoccupa un po' di più, la questione delle truffe che... Ma sicuramente bisogna intervenire nel far sì che il mercato cresca in maniera sana, ed è fondamentale, come associazione ci impegneremo in questo. Bisogna guardare comunque il fotovoltaico e la crescita del mercato nell'insieme, in un obiettivo anche di medio lungo periodo, per cui il nostro obiettivo è arrivare con questi incentivi a creare quell'economia di scala, di esperienza, tale per cui avremo la grid parity, ossia il costo energia da fonte solare fotovoltaica uguale al costo energia da fonte fossile. Benissimo. E quindi converrà. La devo chiudere perché stiamo chiudendo, io la mia rubrica previdenziale, vi rimetto insieme al più presto tutti e tre, perché perfetto, tutto sommato, anche se io non sono proprio una grande esperta per niente di questo settore, mi siete piaciuti molto. Le parole della previdenza. IMSS, per saperne di più. Il concetto di oggi, rapidissime, assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. La legge 183 del 4 novembre 2010 ha modificato la disciplina in materia di permessi per l'assistenza a persone con grave disabilità. Per quanto riguarda i familiari aventi diritto ai permessi previsti dalla legge 104 del 1992, prima potevano fruire dei benefici i lavoratori dipendenti coniugi, partner e affini di disabili gravi entro il terzo grado, mentre le nuove norme prevedono il diritto ai permessi, oltre che al coniuge, ai parenti o affini del disabile entro il secondo grado. Il diritto può però essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, oppure quando il disabile non abbia parenti o affini di secondo grado in vita, oppure essi siano mancanti, intendendo con ciò non soltanto l'assenza naturale, ma anche giuridica, ad esempio in caso di divorzio, separazione legale, abbandono, certificata dall'autorità giudiziaria. Grazie agli ospiti di oggi di Salvadanaio, Maurizio Melis, Gianni Chianetta e Gerardo Montanino, grazie ad Alessandro Longoni, a Filippo Aureggi, torniamo domani, buona giornata!